Marietta, monta in gondola che mi te porto al lido. Nino, che non me fido, chi massa un impostor. Cosa te dici, cocco, perché del quel boschetto ti mascrocca un vasetto per bissegarmi il cuor. E ti che ti che ti ti che dici no, ma mi so che te batte il cuore. Ti che ti che ta, anche lui lo sa che a Venezia la borsa fa in gondoeta. Dico no, no che vegno no, costo a parte insieme no. Moigan punto, moigan punto, posto a parte siete no, moigan punto tutti no. Ma guarda che spettacolo, la luna se d'argento. No far del sentimento, cosa te vol mi so. Sora le tonde cupoe, voale coi ombene. E zonte che pur le stelle, ma non me fido no. E tic tic tic tic che dici no, ma mi so che te batte il cuore. Tic tic ta, anche lui lo sa che a Venezia la borsa va in gondoeta. Dico no, no che degno no, costo a parte sì e no. Moira un punto, moira un punto, costo a parte sì e no. Va ben, finimo là, mi ciappo un'altra strada. Se fa una balosata, non so se te convien. Mi cercherò felicità per farti un bel dispetto. Mi no che no permetto, perché te voglio ben. E ti che ti che ti, ti che dici sì, anche a mi si ne batte il cuore. Che ticchetta, che felicità, a Venezia la borsa fa in gondoeta, in gondoeta, in gondoeta te darò un basin.